ti do una medicina, un fa, e che cosa ne ha la casa farmaceutica per una cosa del genere, con tutti i discorsi di chemioterapie, di medicine per cercare di curarti, eccetera eccetera, perdono migliaia di miliardi, e per cui è come per il Covid, che cavolo, adesso l'esercito quanti vaccini abbiamo da buttare, non so quanti miliardi di vaccini che non servono più a niente perché noi abbiamo avuto il preso il contratto per acquistare non so quanti centinaia di milioni di dosi, che adesso non serve più a niente perché sono già scadute, però abbiamo firmato un contratto noi in Italia non so di quanti miliardi di euro e ce lo dobbiamo pagare pur non facendocene più niente. Sì, vabbè, perché molta gente non ne ha fatto, per dire io il quarto non l'ho fatto, ne ho fatto tre e basta. Vabbè, non entriamo in merito, se no tocchiamo tazzi. Vabbè, lo so che tu sei un vax. No, io non sono un vax, io i vaccini li ho fatti tutti quanti, quelli che servono, no le cose inutili. Sì, ma cioè, uno sperava, no, che facendo il primo vaccino passasse tutto in buonanotte, invece comincia col secondo, col terzo, adesso il quarto, fra poco ci sarà il quinto, cioè non finisce più questa storia. E il corpo deve somministrare tutta questa merda che ti danno loro, scuola la frase. No, non entriamo in merito perché io ho dei combattimenti continui, per cui ho preferito più, ma se no perdo molte volte l'amicizia per questa. Però piano piano la gente sta iniziando ad aprire gli occhi, dai, te ne stai rendendo conto anche tu di quelli proprio assolutamente favorevoli, qualcuno ha qualche ripensamento e qualcosa che ho detto io si è verificata, per cui lasciamo perdere, cambiamo discorso, se no sarebbe troppo lungo. Cosa ti volevo dire di altro? Adesso lasciamo un secondino di bianco, comunque già sei sempre attratto, ogni tanto tagli un pezzo della conversazione. Che non sia sporco il microfono, ma io vedo la lucetta tranquillamente che si accende, boh. Adesso è andata bene, ma molti pezzi, metti tratti, no, non ti sentivo. Adesso lo provo bene, adesso ci sto attento, ora vediamo un pochettino se lo fa, perché se sta messo attento lo fa vuol dire che c'ha il pititi sporco. Controlla anche la batteria magari. No, le batterie le ho cambiate nuove, questo microfono l'ho comprato nuovo, vabbè. Ho comprato nuovo da poco, me l'ha indirizzato Marco Condor, che l'aveva comprato lui e gli è piaciuto, l'ho sentito come usciva e me la sono inviato anch'io. Sei bellissimo, molto forte, anzi devo dire sei pure troppo forte, sono al minimo come volume perché sono me assurdi. Cappa. Sì, lo sto tenendo lontano, Robert, lo sto tenendo un braccio. Ah, non ce l'hai vicino alla bocca, no? Vicino alla bocca è così, guarda. Va a parlare. Guarda, ma quindi sicuramente si sente male, perché è uno amplificato. No, no, così sembra troppo impazzato, mettilo un po' lontano, perché è troppo forte, e distorce un pochettino. Infatti, lo immaginavo che, essendo così forte, aveva letto delle recensioni su internet, Marco, e cose, l'ha provata a comprare, poi l'ho sentito che usciva bene e me l'ho presa anch'io. Ma cos'è? A quant'è l'attacco? A 4. È nata a 4, no? Non è per altri apparati che hanno l'up down e cose del genere. No, vabbè, è a quattro fili, capito? C'ha 4 fili, boh. Ah, ancora importante, no? Perché poi ci sono quelli che hanno cose che non te ne vai nulla, l'up down sul microfono, eccetera, eccetera. Meglio lasciarlo semplice senza niente. Quelli che hanno il volume irregolabile dal microfono. Guarda, vabbè, io non ho fatto nulla, l'ho attaccato e boh. Non ho dovuto manco invertire i fili. E poi ne ho comprato un altro. 9,90 in offerta della Midland e praticamente questo microfono è molto buono, va benissimo lo stesso, e della Midland costava, c'era 70% di sconto. E vabbè raga, si può prendere 10 euro da comprare, ma con la pizza giù mai. Ma poi esce bene, capito, esce forte. Cappa. Ed è completo anche di Ecco. Vabbè, tu sei fissato con l'Ecco, a me l'Ecco forse se fossi stato camionista di quelli che viaggiano nelle colline o nelle cose, nelle alture, bellissima qua in città, già, ve l'ho sempre detto, mi avete tanto criticato, non te ne vai nuda, io sono fanatico della modulazione chiara, pulita, naturale. Quando metti l'Ecco te la sporca, poi ti dà tutto questo rimbombo che non si capisce niente, anche se devo dire ci sono degli echi digitali molto precisi, però non serve a nulla. Io voglio ascoltare una voce è chiara, non devo avere difficoltà, stancarmi l'orecchio per cercare di capire quello che state dicendo. No, ma non è il caso mio, perché io lo tengo al minimo l'eco, non è che io metto un eco da camionista come dici tu, io lo tengo proprio al minimo, si sente un leggerissimo eco, ma proprio appena appena. Capisco già, lo metti, ma che funzione ha? O lo metti o non lo metti? Io dico, quando tu stai uscendo bene, adesso stai uscendo bene, ti poni questa specie di eco che ripete poco poco, stai deteriorando la qualità dell'emissione, per cui che cosa serve? Non c'è significato. È come che io sto parlando, tu sei cantante, che mi metto a cantare e poi mi metto un tappo davanti al microfono perché non mi piace quella tonalità, deve essere naturale la voce. Poi se devi utilizzarlo per camminare dove ci sono deterioramenti e attenuazioni, quel SB di segnale, vuoi che ti ascoltino un po' meglio, a quel punto sono d'accordo, ma qua in città io dico sempre, meglio si esce e meglio è, poi ognuno li deve fare quello che vuole. Ok, riprendi già. Ma io li ho quasi tutti, ecco, perché nel Galaxy ho messo lo BB+4, poi nel 2009 c'è il microfono con l'eco, però l'ho escluso completamente, quindi ecco, non ne ho da nessuna parte. Se voglio lo metto, però ce l'ho sia nel Galaxy sia qua, però non ne sto mettendo, dai, l'ho proprio escluso quasi del tutto, perché i microfoni con l'eco li ho tutti venduti. Guarda Gianni, io ho un apparecchio che c'ha l'eco incorporato, cos'è? Un Intec, forse ce l'avevi pure tu, quello nero leggermente inclinato, quello c'ha l'eco, mai utilizzato. Poi c'ho una camera d'eco della Dense, che questo è un preamplificatore microfonico, puoi attaccare il microfono, ti regoli anche il tune, carino, dai, mai utilizzato. Poi c'ho un microfono, credo che sia un M600, mi pare, sì, credo, e c'ha l'eco, mai utilizzato. Per cui, poi, naturalmente, infatti quello averlo in casa, l'eco, ti ripeto, poi ci sono gli eco belli, quelli nuovi, tipo l'S9, Magnum, sono carini perché è bello chiaro, si va all'infinito, lo puoi regolare di lei la velocità, niente da dire come bellezza e qualità, però ci sono quelli vecchi di vecchia generazione che è una specie di effetto camera, riverbero a molla, che è una grandissima cagata, quello va bene quando suoni una chitarra per dargli quell'effetto tipo, però non per parlare. Vabbè, la questione di gusto anche lì, vabbè, ognuno c'ha... Mi piace appena... Sei uscito per niente, già 2 minuti di passaggio non ho sentito neanche una parola, ho detto questione dei gusti e poi non ho sentito niente. Forse l'ho premuto male, ma ti stavo dicendo che non è una questione di gusti, io quando regolo anche altri apparecchi con l'eco li faccio regolare sempre al minimo perché ti dà l'amplificazione però non ti disturba. Sì, no Gianni, io ti ripeto, ognuno ha i suoi gusti, come quello che si mette il bip e ti piace così, mettilo, però non vedo l'utilità io di certe cose. Il bip può essere piacevole per dire, come ti ho detto, magari sei lontano, non riusciamo a capire quando è staccato il microfono, non te ne accorgi, il bip può essere anche interessante metterlo, però l'eco per i miei gusti non ci sta a fare niente qua da noi. Poi tu dici lo metti al minimo, neanche si sente, va bene, ti piace, lo accetti. Però io dico sempre, quando una cosa serve la metti, se non ti serve no, non è buoni. E come hai detto tu con le macchine, ci sono tante cose, tante centraline, sono più belle le semplici, e io la vedo così anche nella radio. La qualità di emissione è fondamentale per me. Adesso tu c'hai una bella modulazione, perché la devi deteriorare mettendo questo ecco a minimo, e sentire un effetto strano a camera sotto, non vedo la necessità. Poi fai quello che vuoi, con qualcuno ha avuto anche delle controversie di parere, qualcuno dice a me io faccio quello e fallo, nessuno te lo vieta. Sì, vabbè, quello lì non è un modo di parlare, io dico ognuno c'ha i suoi gusti e diciamo che se a me mi piace lo faccio, poi ognuno c'ha i suoi modi di pensare e di agire, non è che uno deve rispondere così, però che mi è piaciuta sempre da quando io avevo la macchina, che andavo a Porto Torres, c'avevo l'Ecco, mi sentivano tutti, c'avevo addirittura il Garan 48 modificato della categoria di Gigi Vulcano, perché me l'aveva venuto lui e quindi era fatto anche bene, e mi sentivano da tutte le parti. Tu pensa che da Porto Torres io parlavo con l'Alghero, cosa che da casa molta gente non ci riesce a parlare con l'Alghero da Porto Torres. Sì, no, sicuramente quando cammini è fondamentale in certe situazioni, non lo metto in dubbio. Qualcuno ce lo fa l'Ecco a voce, lui ci mette l'Ecco e poi allora cosa stai dicendo, cioè si mette a farlo lui l'Ecco sopra l'Ecco, tipo, non per criticare quello del canale, cosa il canale 45, e parlano, ci hanno preso anche il modo di parlare così molte volte, però siamo in città, ci dobbiamo sentire bene, che necessità c'è molte volte, non vedo la necessità. Qualcuno non entrava molte volte perché avevo fatto delle osservazioni, io con Ghizzo non entro perché questo non vuole l'Ecco, vabbè, non c'entrare, pazienza. Sì, vabbè, osservazioni sono modi di pensare, qui bisogna rispettare. Fanno le discussioni, non è che uno perché dice una cosa non c'entro. Io rispetto il parere di tutti, io ho i miei pareri, tu c'è i tuoi, però sempre rispettabilissimi. Comunque anche adesso te ne hai mangiato mezzo la discussione, vabbè, più o meno il discorso l'ho capito, i pareri vanno rispettati assolutamente, non ci mancherebbe. Poi, io il discorso è, se tu stai parlando con me e ti metti l'Ecco, io dico non ti capisco, aspetta, parla piano, aspetta un po', io ho difficoltà, alla fine sono io che mi stufo di parlare con te, non tu che c'hai l'Ecco, viceversa, io la vedo così. Poi se uno torna a stare a fare un questo tutti con l'Ecco, gli piace così, che vadano, io non posso, non partecipo, perché se ho difficoltà a sentirlo, sai quante volte mi capitava, aspetta, cosa hai detto, non ho capito, parla piano, abbassa un po', è troppo forte, non si fa, e che discussione è? Se tu vuoi fare un questo devi avere anche dall'altra parte la persona che sia comprensibile, non è che devo essere in difficoltà a ascoltarti. Quante volte io l'ho detto, non riesco a capire, qualcuno si offende, è peggio per lui. No, a me quando io parlo con l'Ecco non mi hanno mai detto non ti capisco, non me l'hanno mai detto questo, perché è leggero, anche Claudio mi diceva quando è leggero non dà fastidio, e in effetti è così, se lo metto di leggero dà un qualche tono in più, capito, nel senso che ti fa uscire più forte anche. Però se tu usi un Ecco devi parlare più lentamente e dare regolati la velocità dell'Ecco, la ripetizione, perché se tu parli come sto parlando adesso veloce, io 1, 2, 3, prova, il tempo di recupero, diciamo, ti sovrappone la parola che hai detto un mezzo secondo prima e non si ne comprende nulla. Se invece parli allora, oggi è una bella giornata, l'Ecco gli dà il tempo di regolarsi. Però se tu aumenti troppo la velocità e tu ci stai parlando sopra, non si ne comprende nulla. Non è caso tuo, però è capitato più di una volta che non capisci quello che dice. Sì, senza ombra di dubbio, vabbè. Anche a me è capitato che ho sentito gente che non si capiva nulla con l'Ecco, però perché non è saputo regolare. Io quando, prima di entrare, quando c'avevo l'Ecco, andavo sull'altro canale con l'altro apparecchio, mi ascoltavo con le cuffie e vedevo la regolazione, se era giusta o meno. Certo, in base al tipo di voce che c'ha lui e il tipo di parlantina, perché io sono abbastanza veloce parlando, ci sono quelli che invece sono più lenti, più diciamo più macchinosi parlando, che parlano più tranquilli, eccetera eccetera. Io sono una macchinetta, se mi metto l'Ecco devo mettere a zero di velocità e stare attento a quello che dico, perché sennò non ne comprendi nulla. Tu non prendi il respiro parlando. No, quello già è vero, infatti molte volte me l'ha detto tante volte, però sono così, è il modo mio di parlare. Io a me mi urtano molte volte, sento poco fa la televisione, la mia televisione, stavo ascoltando la radio e telefono a questo. Pronto? Ci sei? Sì, eccomi. Allora, io volevo dire, volevo chiedere, sai, mezz'ora a parlare, cacchio, me ne scendono le cose, le braccia in terra. Avevo un compagno di scuola così, era una lentezza a parlare all'interrogazione, anche il professore gli dava fastidio, era preparato, ma io forse sono abituato a parlare in radio, non lo so, da sempre, anche parlare in mezzo alla gente, c'ho un modo di abbastanza veloce di parlare, ma ci sono delle persone, quelle con una lentezza, pulentuni, dai, chiamiamole così. No, sono, diciamo, sì, negli 70, placcati sono parlando, e diciamo che te ne fanno scendere il latte secondo come parlano. No, ci sono persone che parlano troppo lentamente e ti rimarranno una... No, vabbè, ognuno ha il suo modo di fare e di essere, quindi rispetto a, sono tutti da rispettare. No, assolutamente. Però io dico una cosa, quando stiamo parlando qua in 27, non per parlare male di nessuno, ma io con me compreso molte volte faccio passaggi troppo lunghi, ma ce ne sono certi che alla fine dico, oh, là sarà da burulati, oppure guarda, ti dico, questo passaggio devo andare via perché mi hanno chiamato, e io per l'educazione non mollo, devo aspettare che lui finisca di parlare tra mezz'ora e alla fine dico, oh, io devo andare via, e fanno passaggi molto, molto troppo lunghi. Poi ce n'è qualche un altro che magari il passaggio è breve, però è lento, lento, lento, però posso capire magari una persona anziana che lui ha difficoltà a prendere il respiro, il fiato, eccetera, eccetera, però qualcuno di questi non è così anziano, il respiro dovrebbe averlo abbastanza efficiente. Riprendi già. No, è proprio un modo di essere, vabbè, è un modo di essere, però ti danno serenità certe persone quando parlano così, sono più serene, dai, ti danno un senso di serenità quando ti parlano così, ma non lentamente, ma diciamo in modo pacato proprio, dai. Guarda, io non so se tu ti ricordi quello vicino di Natalino, Emanuele, te lo ricordi, Ponzio Pilato? Sì, ah. Quello era un piacere ascoltarlo, mi sembrava stesse dicendo la messa a un prete, un coso, un papa, non lo so, era anche bello perché c'era anche una bella modulazione, una persona molto anziana, mi ha detto Natalino, io non l'ho conosciuto, molto educato, era un piacere ascoltarlo. Poi ci sono quelli che stanno in mezz'ora che parlano lenti e tengono la comunicazione lunghissima, ripetendo mezz'ora le stesse cose, e basta una volta solo. Ognuno ha il suo modo di essere. Cosa vuoi fare? La vita è bella perché vale, roba, cosa devi fare? Non possiamo essere tutti uguali. Assolutamente, d'accordo, adesso noi stiamo monopolizzando, magari qualcuno vuole entrare, sicuramente ce n'è più di uno che sta ascoltando. Io direi di lasciare un secondino di bianco sul canale 10, chi vuole entrare lo facciamo entrare, se no riprendi tu. Vai già. Mi pare che nessuno ha voglia di entrare in questi giorni, sono già 3 giorni che entra pochissima gente. Io sono entrato l'altro giorno e c'era Muros, Claudio stava provando, cioè quell'SBE veramente esce una meraviglia, infatti ho detto non toccarla con la radio, lasciala così, le avevo regolato un po' i tuni, il microfono perfezionato, cioè perfetto, anche come intensità tutto, poi ne mette un altro perché non si comprende nulla, ha detto tieniti quella radio lì e non la toccare, esci con quella, non con le altre, fai delle prove così. Eravamo su sì, poi ci siamo spostati qua sul canale 10, abbiamo stato 2 o 3 giorni fa ci siamo sentiti, poi tempo fa, qualche giorno prima con Gavino ci sentiamo spesso, però dopo cena ci siamo sentiti, abbiamo fatto delle belle chiacchierate perché lui è una persona competente nel suo campo, per cui scambiarsi delle informazioni è sempre interessante, dei bei questioni, dai, non le solite cose di cosa hai mangiato, cosa hai bevuto, diciamo, quando ci sono dei bei questioni, mi hanno mandato anche il messaggio qualcuno che stava ascoltando, ha detto una bella conversazione, vi stavo ascoltando, e fa anche piacere quando si sentono queste cose. Sì, vabbè, con Gavino io ci parlo sempre, anche ieri notte c'ero, ma vabbè, sì, Gavino conosce il suo lavoro, normale, nel campo del canto e cosa, quindi anche a te interessa quel campo lì, è normale che tu ci possa fare una discussione, parlare di impianti, di questo o dell'altro. Per caso Gavino ha belle attrezzature del suono anche. sì, capito, è il suo lavoro, nei servizi lavora quello lì, poi è un grande SW, è appassionato, mi ha mandato le foto della, delle sue attrezzature, delle sue antenne, no, bello, piacere, poi ci siamo scambiati informazioni a riguardo di traliceti, perché lui quelli li monta a occhi chiusi, perché sono quelle le americane, quelle di corso, che utilizzano per i concerti, per montare i fari e gli impianti acustici, eccetera. Ne ha fatto uno bellino, poi mi stava parlando che deve montarne un altro successivamente ancora più performante, più alto, poi ci siamo scambiati delle informazioni e così con qualche d'un altro che probabilmente sta anche ascoltando adesso di giù, dalle parti di giù naturalmente, e ci sentiamo anche per messaggi, ci scambiamo delle... ed è bello anche così la radio, soprattutto perché stare sempre a raccontare altre cose, diciamo non inerenti, però ci vogliono anche quelle in certe situazioni, però quando sono discussioni piacevoli, adesso per dire, certe volte entrava anche Giulio, si sentiva, si raccontava di tipi di antenne, dico è sempre interessante, qualcuno ha detto per questo fatto qua non entra più perché non sente discussioni accattivanti, diciamo interessanti, però purtroppo qualche cosa è cambiato, dai. Di nuovo te Gian. Sì, vabbè, si è parlato di tutto, anch'io ho parlato con Davino di antenne, di tutte queste cose qua, abbiamo intrapreso diversi discorsi anche l'altra notte. E poi Davino ha trovato una bella antenna adesso, una Firenze 2 che non è mai stata usata, l'ha pagata la fesseria, 40 euro, nuova, ancora è scatolata. E infatti mi ha chiesto se la conoscevo, no, una bella antenna, quella ha fatto la storia del radiantismo, dai, dai tempi, non so qual sa, forse Giulio l'ha avuta qualcuno, in continente ne hanno usato tantissimo, ancora prima della Mantova, anni 70, era un'antenna diciamo abbastanza performante, poi sono uscite quelle 5 ottavi, quelle più grandi, però è una bella antenna, dai, nuova in scatola, l'ha pagata, infatti l'ho detto anche se magari ci avrà una 5 ottavi che rende di più, è sempre un'antenna, le antenne qualunque siano è sempre bene averle, poi magari volendo uno può anche modificarla, la coccia se la usa per i 10 metri, non lo so, la adatta per altre cose, però io ne ho diverse di antenne, più ne hai meglio è, così puoi fare anche le comparazioni, le metti eccetera eccetera. Di nuovo riprendi già. Sì, no, vabbè, Gabino ne ha diverse, le piace fare queste comparazioni, capito? E niente, comunque va bene con tutte le antenne, adesso ci ha messo anche una filare e va molto bene, arriva a 9.30 qua. Sì, ho visto, poi ci dobbiamo sentire qualche progettino, magari ce l'ho anche io, poi vediamo un pochettino. Mi ha regalato i radiali della Mantova, ce li avevo a parte, ma detto guarda, li do, tanto non li sto utilizzando, ancora imbustati, mai usati, ce li ho di scorta, della Mantova 5 sono, anche se la mia la Mantova 1 ne ha 4, però sono nuovi dentro il cielo, fa. E l'ho ringraziato tantissimo, è stato molto generoso e gentile, infatti ho detto, da parte mia c'hai grande disponibilità, qualunque cosa ti possa servire, che ho da darti, te lo darò ben volentieri. È bello anche così, non ci conosciamo di persona, ci siamo conosciuti così in radio, però una persona piacevole da parlare e anche da ascoltare quando racconta qualcosa del suo lavoro. No, io Davino lo conosco già da un po' di tempo, e se vuoi proprio saperlo, l'ho convinto io a entrare in radio. Sì, ed è bello così, io la stessa cosa l'ho fatto per il campo radioamatoriale, qualcuno ha detto vieni, metti, fai, sì, e sono rientrati anni, gente che era anni che non entrava, radioamatori di una certa età, adesso qualcuno l'ho recuperato e qualche movimento in più si sta facendo, dai. Più ce n'è meglio, c'è più varietà di gente. C'era un periodo che qua sul canale 10 era pieno di enti, poi si è scomparso per un po', ripopolato nel periodo del Covid e poi di nuovo così. L'altro giorno, tempo fa, è venuto Riccardino, l'ho sentito, ci siamo sentiti un pochettino, è sempre un piacere ascoltarlo, infatti ho detto Riccardino quando vuoi vieni, non ti preoccupare, poi è un grande appassionato ancora, anche se qualcuno magari l'ha un po' allontanato, spaventato, gli hanno messo delle cose che non erano vere, hanno raccontato, però è un ragazzino per cui accettiamo, magari ci ha fatto anche qualcosa che poteva essere sbagliato, secondo me non ha fatto niente, accettiamolo per quello che è. Il problema quando lo fanno gli adulti, che di lì è un po' più problematica la situazione. Ma io per Riccardino a me mi è dispiaciuto molto, perché Riccardino è un ragazzo intelligente che si applica quando le piace una roba, perché io mi sono accorto che in poco tempo ho imparato il gergo, se l'ha studiato tutto, ha imparato il gergo CB, ha imparato a modulare, bisognava lasciargli un po' di spazio in più, invece qualcuno gli ha tagliato le gambe. Già lo so, però gli ho detto, Riccardi, da parte mia, noi lo consideriamo come un figlio, cioè infatti mi ha detto, tu sei il mio padrino, ma di altre persone, in altre bande, il padrino era altre persone, però quello, il primo che l'ha lanciato, non per vantarmi, sono stato io, Riccardino, e poi piano piano qualcuno l'ha accettato, alla fine è diventato amico di tutti, perché era un ragazzino che si faceva voler bene da tutti quanti, non ne posso che parlare bene, anche il padre, tranquillo, eccetera. Io sono andato anche a casa loro, mi hanno fatto entrare, mi hanno fatto vedere tutto come una persona di famiglia, dai, è stato assolutamente gentile a farmi entrare, mi ha fatto vedere, mi ha chiesto tanti consigli su apparecchiature, su ricevitori, cosa poteva fare, eccetera, eccetera. Poi l'hanno un pochettino, le antenne, lo stesso, mi ha detto, beh, cosa consigli, eccetera. L'hanno un pochettino demoralizzato quando è uscito il discorso delle portanti, chi era, chi non era, ma io non dubitavo che non era lui, però qualcuno magari ha pensato che fosse lui, poi magari si è ricreduto, però lui ascoltava molte volte quando sentiva queste cose, si sente toccato, un ragazzino, e alla fine viene un po' disamorato della radio. Io l'ho sentito da poco, ogni tanto capita in officina, viene a me volentieri, perché il padre lavora vicino a me, e ci abbiamo un bellissimo rapporto da parte mia, ho detto, non ci sono problemi, come credo da parte tua e da parte di tantissimi. La cosa riguarda la portante, era stata sgravata, capito? Qualcuno è uscito in macchina e è riuscito a capire dove era. Quindi non era lui. Assolutamente, ma anche se fosse lui, diciamo che è stato lì, quindi se non ti piace il giorno sacchi, a me non mi ha mai toccato niente nessuno, qualcuno si è sentito toccato, perché quando parlava si vedeva disturbato, però già, tu c'hai più esperienza di me, ne avrei visto di cotte di crudo e molto più di me, a me non me ne ha fatti nulla, la radio è un divertimento, quando voglio passare 10 minuti accendo, se non mi piace l'ambiente, non mi piace tutta la discussione, non entro neanche, è così, c'è la portante e basta, è inutile arrabbiarsi, dire parolacce, bestemmie, di tutto e di più c'è stata, alla fine è futtidine. Lo so, però vabbè, danno fastidio sinceramente, chi mette la portante dà fastidio, perché non disturba solo la persona a cui mette la portante, ma disturba tutta la rotta, per cui dà fastidio a tutti. E vabbè, comunque, diciamo che non era Riccardino, perché sono uscite dalle macchine per controllare, quindi hanno capito dove era. Ah, non so, ma io i segnali già, nella mia posizione, ma da te è un po' più complicato, perché tu ce li hai, tu sei al centro più o meno, li vedi più o meno tutti allo stesso livello, ma io che sono spostato, sono un po' decentrato rispetto a tutti voi, io me ne accorgo quando attacchi tu, quando sei staccato, quando c'è Riccardino, quando c'è Giulio, quando c'è Claudio, quando c'è l'altro, come si chiama, Carlo, che c'ha il segnale più forte di tutti, non so chi è il segnale. Poi se uno è molto esperto e si mette ad andare magari tipo manda laterale, manda portante, è un po' più difficile trovarlo, però non lo so se tutti lo possano fare questo discorso qua, però i segnali lo sappiamo di chi sono, perché poi hanno fatto due o tre numeri di questo segnale, io alla fine ho detto non c'entrano niente, non c'entra, e alla fine avevo ragione io. Ma infatti i nomi non bisogna farne, se non sei sicuro, ma chi è andato a controllare ha staccato il PL, ha capito quando era sotto casa, quindi ha capito chi era. Ma si sa più o meno chi è, però non me ne ha fatti nulla già, te l'ho detto, a me non mi interessa se sei tu o se l'altro, lui la vede così, peggio per lui, è lui che si deve preoccupare, non io, se sei a quei livelli lì. Io grazie a Dio a me non mi hanno mai messo a portare, magari avranno parlato male, non lo metto in dubbio, me ne avranno detto di tutti quelli, non me ne ha fatti nulla davanti a me, grazie a Dio, tutti quelli che sento, cioè abbiamo un buon rapporto, poi se alle spalle me ne dicono tutti quelli non me ne ha fatti nulla. Ti ripeto, la radio è un divertimento, non è un lavoro, non mi dà lavoro a me la radio, per cui se mi stufo, cioè non mi piace quello che c'è in quel momento lì, non accendo, me ne vado da altre parti, ne ho tante cose di possibilità, qualcuno se la prendeva a cuore, purtroppo direi ancora più adito a farle le cose, a quello che mette la portante, però grazie a Dio devo dire che è scomparso. L'altro giorno c'era qualcuno che quando parlava, non mi ricordo chi, era un segnale qua, arrivava intorno ai 9:20, mi sembra c'era Tonino, schiacciavano sopra un pochettino, gli davano fastidio, però alla fine è finito di lì, è durato qualche minuto e basta, per cui finisce di lì il discorso, e si fa troppo presente la cosa, e quello si diverte, invece si evita, lo lascia media alla fine e si stufa. Oh, ma infatti, ma che cavolo, io non ho mai fatto queste cose, non mi piace, se uno vuole parlare deve entrare a parlare, non mettere il portante, consumare energia elettrica per mettere la portante, ma non lo farei mai. Ma non esiste, cioè, a me mi puoi dire tutte le cose, io se ti devo dire qualcosa di brutto, ti chiamo e te lo dico al telefono, tu sei un pezzo di pillarla, in quel po' te lo dico di lì oppure te lo dico in faccia, ma non in radio, non mi nascondo io dietro una radio per dare fastidio, per fare il come quelli che vanno ti graffiano la macchina perché l'era parcheggiata male, ma dove si è mai visto? Le persone, la falsità delle persone, non ti puoi nascondere dietro un tasto del microfono, quando sta parlando quello lì perché ti è antipatico, se mi è antipatico io non c'entro, molte volte mi capita, non mi piace la discussione, come ho detto prima, le persone che ci sono in questo momento non ho voglia di parlare e non entro, però non è che me devo fare una malattia, mi devo arrabbiare, il fegato, tornarmene a casa accoricato col mal di stomaco, mal di fegato perché mi hanno messo la portata. Non mi va, spengo, ciao a tutti e me ne vado. Vabbè, quando c'è autocontrollo è così, a volte però succede che stai facendo un discorso tranquillo, mettono la portata e ti dà fastidio, alla fine ti incazzi perché ti incazzi, parolacce io non le dico, però a volte mi incazzo anch'io. Perché dico, cavolo, stiamo facendo un discorso tranquillo, entra a parlare, o non c'hai argomenti, cazzo, non fa per quello. Sì, lo so, ma tu non hai idea, già, forse lo saprei più di me, io la conosco pure di persona, quanta gente ascolta, ma tanta gente ascolta, ci sono quelli che dicono, ma perché vedete, no, mi piace anche ascoltare a me, molte volte ci sono argomenti che mi interessano, molti SWL che hanno la possibilità di entrare, però dice, no, non mi interessa, non voglio partecipare alla discussione. Che mi mandano tante persone messaggi, molti li troviamo di persona, mi sente eccetera, dico entra, gente che proprio non entra, che hanno l'apparecchio, e dobbiamo considerare che ci sono anche persone, per dire adesso stiamo parlando noi, magari c'è qualcuno, c'è la radio accesa e c'è la mamma, la sorella, la bambina e cosa, se fai inizia a dire parolacce, a dire offese, a fare quello, figlio di là, tua madre qua, quell'altro là, alla fine non facciamo neanche brutta figura, alla fine molte persone si stufano e se c'è appena voglia di entrare nel bassaraga, quando invece si sta tranquilli, e ce ne sono tante persone qua che vi posso togliere il cappello, che sono educate, tranquille, non danno fastidio a nessuno, però molte volte ne basta uno e rovina tutto l'ambiente. E vabbè, e che devi fare, vabbè? Io quando c'è tranquillità entro perché sono una persona tranquilla, mi piace fare dire le mie opinioni, fare discorsi tranquilli, non mi piace bisticciare con nessuno, per cui se vedo che c'è tranquillità io entro, mi faccio il mio discorso e via, poi quando finisco saluto e me ne vado, ma sempre educatamente. È quello che ho detto io, tu non so se mi hai mai sentito a me bisticciare con qualcuno, ho avuto una discussione nelle bande della materia, ma discussione a livello educativo, cioè di educazione con rispetto e tutto, chiarite delle cose, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, dei comportamenti, ma detto sempre con educazione, senza dire che non sto facendo guerra a nessuno, non sto facendo polemiche, però certi comportamenti, perché succedono anche in bande radioamatoriali, che lì molte volte qualcuno fa lo spacconcino, eccetera, eccetera, denigrando altre persone, e non è bello. Però se tu inizi alla radio a parlare in un certo modo, molte persone hanno anche piacere ad entrare. Poi si comincia a dire parolacce, quell'altro dice le mette la portante e inizi a dire di tutti i colori, perché qua ne ho sentito di tutti i colori già, cose lo saprei più di me. Adesso Maria anche meno perché si è pochi, ma ai tempi che furono c'era gente che si bisticciava, andava a cercarli sotto casa, ma di cosa stiamo parlando? Sì, e si azzuffavano. Io guarda, non ho mai avuto problemi con nessuno, ma quello che mi pestino i piedi, allora anch'io mi giro, però di solito cerco sempre di evitare. Allora, non per vantarmi già, io due volte mi sono capitato, due occasioni qualche anno fa, con due persone che non facciamo nome, e poi altre due persone di cui non faccio nome, che a Giammai si affarrano, stavano andando a incontrarsi, se non mi intrometto io e cerco un po' di calmare le acque, si stavano andando a far affrontarsi per una discussione inutile, per un argomento che non aveva senso, perché uno ha detto una cosa e tu cosa di dire, e dici mica non ti dico, e si stavano per afferrare. Un'altra volta per un ascolto che col segnale la radio non serviva, che lo smette, eccola lì, perché la tua radio è una pazzia, non vale nulla, quello gli ha detto che la radio sera era una cagata, eccetera eccetera, e a Giammai non sa fare ne altri due. Meno male in quel momento c'ero io, gli ho fatti ragionare, ho detto ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando, e alla fine si è calmato. Ma se non interviene qualcuno in certe situazioni, molte volte si creano anche situazioni un po' più importanti, vado in Tibi, dabro in due, ti posso dire, e alla fine succedono cose brutte, per cui piacere sempre anche le persone che sono un po' più tranquille, cercare di far ragionare nello stesso modo alle altre persone. Vabbè, la radio è fatta per rilassarsi, non per bisticciare. La radio deve essere un mezzo per stare tranquilli, per rilassarsi, è un hobby, non è che è fatto per bisticciare, ma purtroppo che tu lavas e che tu barrittas, diceva quello. 100 teste e 100 capelli, come detto in italiano. Ah, ma dico di molte volte, a me mi bigliavano, ma professore, tu professorino, è entrato professorino. Io dicevo sempre, se tu vuoi un controllo serio te lo do, se ti offendi, perché ti sto dicendo che stai uscendo male, non me ne chiede. Però qualcuno si offendeva, a me è entrato un professore, è entrato guido, cavolo, se tu non ne vuoi io non te ne do, non ti ascolto con un altro parlante di baracchino, io ti ascolto con altre cose, eccetera eccetera. Però qualcuno lo accetta, se tu a me mi dici vabbè guarda che non stai andando bene, secondo me è meglio, e io grazie, ti ringrazio, non è che la prendo come un'offesa, purtroppo qualcuno se la prendeva a cuore, perché non si dice tu non ne comprendi nulla qua là, ma cosa radio là, detto anche da persone, una volta una persona molto importante che non è in questo ambito qua, si è intromesso una conversazione e tu la stai ascoltando, come fai a dire, ed era uno mai visto e conosciuto e si è intromesso una conversazione, una persona non si può fare il nome perché non entra mai qua, però il giorno era in macchina e stava mettendo benzina, non so con che apparecchio, e si è intromesso una conversazione che io no, neanche lo conoscevo, forse una volta l'ho sentito in radio, questo qua perché è un radioamatore, non era un CB, e mi avevano chiesto dei controlli, io li ho dati, e con cosa gli sta dando, con un baracchino, aveva, ho detto, prima di tutto non sai neanche cosa sto utilizzando, che tipo di apparecchio prima di tutto, e che altri tipi di apparecchio, e questo si è messo in mezzo così che non vi trova nulla. E lì una delle pochissime volte che ho avuto modo di risponderla, ma sempre educatamente. Vabbè, è stato pungente lui dicendo le cose. No, perché molta gente ha anche un senso di superiorità. Io sono entrato da poco da radioamatore, però il carattere mio è sempre quello, non ho mai avuto la presunzione, a chi sono diventato un radioamatore, di essere più importante di voi o di chiunque altro. Idem nelle altre bande, c'è sempre da imparare, anche i cosiddetti campioni, perché anche loro hanno da imparare, quando vuoi ascoltare certe persone in certe bande, senti dei professori, degli ingegneri e stai zitto e ascolti, perché non puoi competere, però c'è qualcuno a chi sa attaccare uno spinotto, un piede, e si crede chissà cosa, si crede che è già arrivato, e purtroppo non è così, c'è sempre da imparare e ci vuole umiltà di dire, di farsi spiegare, io sono un grande persona nel senso da livello di informazioni, chiedo da tutte le parti, di tutti gli argomenti, può essere Claudio dal depuratore dell'acqua, può essere tu di quando del lavoro che facevi tu o dell'altro che si occupa di immondizia, per dire, gli argomenti di qualunque genere, sono una persona che gli piace avere informazioni, non so se sia un difetto o un pregio, però qualche altro è convinto che sa qualcosina un po' di più, che sia l'inventore dell'acqua calda. Vabbè, io ho un parere, basta che uno si comporti educatamente sia qua che là, si fa sempre radio, si può fare bene o male sia là che qua, quindi se uno è educato e si fa i discorsi tranquilli senza rompere le scatole. Aspetta, sei arrivato senza rompere le scatole a nessuno già, poi non ho sentito cosa hai detto. Ho detto basta che uno sia educato e non rompa la scatola a nessuno, che fare la radio sia da una parte che dall'altra, sia nelle radio amatoriali che qua. Sempre fare la radio è sempre un hobby, magari lì ci sarà la patente in più, però è sempre fare la radio, perché quasi tutti i radioamatori prima erano scimmie, capito? Assolutamente d'accordo, però non è perché ho preso la patente, fino al giorno prima ero un CB maleducato, sono diventato di colpo un radioamatore a livello mondiale. Anche lì ti devi fare le ossa, piano piano, c'è tanto da imparare, e la prima cosa è l'educazione, in tutti i livelli, dai PMR arrivare alle bande satellitari, devi avere sempre educazione rispetto alle persone. Poi, se tu sei una persona intelligente, ti chiedono delle informazioni, per me è un orgoglio se tu mi chiedi, vabbè, nel mio lavoro o di qualunque altra cosa, cosa ne pensi, che cosa, io sono il primo per orgoglio personale che ti do le informazioni. C'è qualcuno invece che se le nasconde, oh, vai, c'è internet, vai, cercate la internet, studiati i manuali, e rispondono così i fighetti, volte e volte, prima volta mi è capitato. Vabbè, queste sono persone che si danno aria e che non gli piace aiutare la gente. Io sono fatto diversamente, se posso dare la mano a una persona gliela do, se gli posso dare un consiglio che un microfono può dire che io ho provato, va bene, lo dico senza essere geloso di nessuno, non mi interessa, lo dico chiaramente. Ho detto anche di quello che c'era in offerta e molta gente ha preso nota, poi non so se ce l'abbiano ordinato, però intanto gli ho mandato il link e tutto quanto. Vabbè, comunque, siamo tutti diversi uno dall'altro, vabbè. Diciamo che a te piace scoprire, piace informarti su tante cose, quindi sei più informato di tante altre persone che magari non si informano, e non è perché sei insegnante o professore o cosa sì, è perché ti informi perché ti interessa quella determinata cosa. Io sono fatto così su cose che mi interessano particolarmente, tipo fotografia, baracchini, gli uccelli, mi informo molto sui pappagalli, tutte queste cose che a me interessano mi informo sino a fondo, capito? Idem io, ma anche per degli argomenti che potrebbero anche non interessarmi, capita una discussione, io faccio un esempio banale, l'esempio di Claudio quando lavorava nel reparto potabilizzazione dell'acqua, dice cosa della Futi, di che cosa usiamo, che prodotti usiamo, come il ciclo di è sempre una cosa, un argomento che puoi informarti, almeno se domani ti farò una domanda, dico no, guarda che non è così, perché ho ascoltato da uno che nel suo campo lo sa, oppure tu eri nel reparto delle merci di quella ditta di lì, invece robe, guarda, funziona così, noi abbiamo questo, la ditta fa questo tipo di coso, tanti argomenti, là, per dire una cosa qualsiasi, e ognuno ti può dare delle piccole informazioni che magari tu dici, non mi serviranno mai nella vita perché mica faccio il consegnatore di me, però vedo un po' come funziona il discorso del lavoro tuo o di qualunque altro argomento, quello che si occupa di idraulica, che fa un impianto idraulico, dice no guarda devi mettere una valvola così, non mettere quella, sono sempre come una cosa di in più che sai nella vita. Poi quando io dico qualcosa, magari qualcuno si sente a disagio, perché dice me, un professore è entrando, e lì un po' mi urta un pochettino, perché se tu non vuoi informazioni non me le chiedere e non ti intromettere o non ascoltare te vai un'altra parte, ma se tu mi chiedi, vabbè, mi dici com'è questa cosa, io te la posso dire, lo dico ben volentieri, e l'altro magari si offende, si sente invidioso perché non partecipa alla discussione. Poi ci sono quelli intelligenti, no, parlate voi, è capitato più di una volta che non è un argomento che posso dare informazioni perché non sono preparato, preferisco ascoltare, ed è anche un segno di intelligenza secondo me, però purtroppo è un obbediente che queste cose non le ha ancora captate. Io faccio così lo stesso, cioè se io non conosco una cosa ascolto e apprendo, se per dire quelli che dicono che sia un professore questo e quell'altro è perché magari sono ignoranti e non gli piace imparare, non gli piace ascoltare quello che gli altri sanno in più, sono gelosi magari perché tu sai più di loro, e tutte queste cose così, perché uno deve anche sapere essere umile e dire c'è sempre da imparare, non nella vita c'è sempre da imparare, per cui uno se ascolta chi ne sa più di lui, è sempre buono. Magari tu sai una cosa in più di me, io ne so un'altra più di te, però intanto tu impari da me, io imparo da te, e sono sempre... E certo, dirci, c'è l'alberto, non c'è peggiore ignorante che non ha voglia di ascoltare, quello è peggiore ignorante, quella è la cosa più brutta. Però io in certi campi posso dire la mia, in certi campi, però in questo campo che sono convinto, Mario, di dire con certe persone la mia, ascolto altre persone, mi devo stare zitto perché mi rendo conto che non so niente di quell'argomento, pur avendo qualche informazione. Mi è capitato tantissime volte che trovo delle persone che mi sto zitto, chiedo informazioni, soprattutto se vai su certi campi dove io posso dire la mia, però poi ti confronti con delle persone, devi stare zitto, a quel punto chiedi. Io sono un grande chiedone di queste cose, faccio 2000 domande una dietro l'altra, infatti mi dico, se mi interessa quell'argomento ti bombardo di domande, se una persona ne sa mi può rispondere, ne faccio decine di domande, però è un senso di rispetto verso quella persona e soprattutto di umiltà e voglia di imparare. Purtroppo l'umiltà non fa parte della norma di questa terra, c'è troppa gente presuntuosa e convinta di sapere tutto e non accetta mai se quella persona può saperne un pochettino, no, molto, un pochettino più di lui. Beh, infatti, quello lì è l'assetto del sapere, no? Beh, fare le domande è quello, è l'assetto del sapere, no? E uno quando si informa, diciamo che si accostuma sempre di più in tante cose, c'è poco da fare. Se uno si informa delle cose che non sa, poi può apprendere e capire il perché delle cose, no? Certo che sì, poi io sono la mente aperta, posso chiedere qualunque cosa, di qualunque argomento, dal pomodoro, come si pianta, a come si costruisce una navicella spaziale, per dire, argomenti dal più semplice al più importante. Mi leggo, sto continuamente leggendo, informandomi di tutti gli argomenti, ci sono cose che proprio non mi interessano, se parli di cucina, proprio un argomento non me ne affutti nulla, dire gente che si diletta, fa, è una cosa che proprio non mi appassiona. C'è una cosa che mi potrebbe appassionare, però è un grande difetto, non ho pazienza, suonare uno strumento musicale è sempre un mio sogno, c'ho la chitarra, c'ho la tastiera, però non ho la passione, non la passione, la pazienza di mettermi qualche ora al giorno o mezz'ora al giorno per provare a imparare. Ho provato, però non ci riesco. Io sono di quelli che le cose le devi fare subito, se non riesci a farle subito non le fa. Però l'argomento che mi interessa mi butto sotto con tutte le mie forze e di lì posso dire che ho fatto una cosa, sono un perfezionista, uno di quelli che gli piace la precisione assoluta, e se è una cosa che mi interessa di qualunque argomento mi butto, mi informo e ne faccio di tutto di più, mi aggiorno continuamente, soprattutto qua in campo radiofonico, eccetera eccetera. Lasciamo un secondino di bianco sul canale 10, chi vuole entrare o chi vuole partecipare qua alla discussione, se no riprendi tu già. Vai già. Va bene, nella vita bisogna essere umili e c'è sempre da imparare. A me questo me l'ha insegnato mio padre, ricordati sempre che nessuno è mai finito, c'è sempre da imparare. Queste parole me le ha dette mio padre. Lo diceva Einstein, non penso che avesse molto da imparare, eppure ha detto c'è sempre da imparare, e quello era uno dei più grandi scienziati della storia. Leonardo da Vinci ha sempre cercato di scoprire e di fare, i maggiori scienziati del mondo hanno sempre avuto e soprattutto hanno avuto l'umiltà di cercare di scoprire, e poi ci sono i fighettini che si hanno preso un diploma, una laurea e sono diventati di colpo illuminari. Basta vedere quello che succedeva durante il Covid con i sapientoni che c'erano lì, che hanno detto tante di quelle fesserie e non hanno ascoltato le persone che effettivamente erano nel campo. Non parliamo di politici che si sono fatti abbindolare da tante fesserie. Vabbè, parte del discorso del Covid, sino guai. Quello è proprio un discorso che non bisogna toccare, Robè. Sì, sì. Adesso dice che arrivavano le multe per chi non aveva fatto il vaccino, stanno minacciando, capito? Ma già, cosa mi ha fatto? La salute mia conta più di tutte le fesserie che hanno detto. Lasciamo quello. Detto, non entriamo nell'argomento perché c'è troppa gente che ascolta e non mi piace dire le mie idee, se no qua. Finiamolo qua il discorso e basta, continuiamo a parlare di radio, di tecnica, tecnologia, di qualunque argomento, ma non tocchiamo quel campo lì, perché sennò si va a finire negli altarini e si aprono le armadi con pieni di scheletri di tante persone. Vabbè, siamo ubiti. Cosa volevo dire? Riprendi. Io riprendo e ti saluto perché io devo portare giù il cane. Non l'ho manco mangiato, non so se tu abbia mangiato, ma io non l'ho mangiato. E anche io vado a mangiarmi qualcosa adesso, poi magari più tardi riprendo però su altre bande. Dai. Ti saluto Gianni, grazie per la chiacchierata, saluto anche i miei amici eventuali in ascolto qua. Dai. È bello parlare così di argomenti tranquilli, salutari e distensivi, come l'amaro medicinale Giuliani, o cos'era? L'amaro, quell'altro amaro contro l'augurio della vita moderna al Cina. E così è bello parlare tranquillamente, senza troppe cose complicate. Dai. Ok, canale 10, chiudo, correttivo. Vado io e di nuovo a te Gianni per i saluti. E ciao Robert, ci sentiamo, buona carica quando la fai. Adesso guardo se non l'ha portato la mia compagna il cane giù, lo devo portare io, dai, non ho già sei gare, ma bisogna farlo, dai. Ci sentiamo Robert, ciao ciao, buona serata, dai. Che avanti come tra? Guarda che non stai uscendo, ti sento solo riportando. Sta passando il treno, Robert. CQ10, c'è qualcuno? Dentro canale 10. Ciao Robert. Buonasera. Ciao ragazzi, ben sentito. Allora Robert. Non c'è l'altra, adesso ho fatto un paio di giri in altre parti e poi poi ci vediamo se c'è qualcuno su questo canale. Un'oretta fa stavamo parlando con Gianni, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo parlato un po' in generale di tutto, di argomenti di tanti generi. Dai, si prende, capito? Bene, positivo. No, io a portare la bambina al carnevale. L'ho acceso adesso, dai. Adesso bugia un quarto d'ora. Ho visto l'altro giorno pure, stavi prendendo un buffer, ma cos'è, la GBL quel buffer grosso che stai prendendo? Beh, l'ho venduto una vacca tedesca, era di, l'avevo preso per altro di ricambio, e dai, ho tolto quelli che c'erano prima e lui li ho messi negli altri in altri due subureo e quelli lì usati, ma lo trovo nello 70 euro perché ero usato proprio, ne avevo quattro, li ho fatti fuori tutti all'istante, ho un Cooper nuovo, è un Cooper che hanno lavorato 20 serate, hanno fatto una stagione e lui li ho tolti e li ho messi nuovi. Allora, 15 o 18 pollici? No, 18 pollici. Io ho sia 18 pollici che 21. Ho due singoli 21. Due singoli 21 pollici dalla LSS. Bella bestia, sembrava un GBL perché la cassa è presso fusione alluminio, il coso, il cestello. Sì. Sono dei bei coni, non sono potentissimi, però hanno una bella risposta in frequenza, dai, sono dei semi rigidi, e scendono a 30 Hz. Scendono a 30 Hz, scendono a 600 watt RMS, AS. No, sono belle cose, bei giocattoli di professionali, non sono giochi per divertimento, sono belle, come costruzione si vede che sono delle cose belle e performanti. No, io le avevo prese qualche anno fa, nuovi, però le ho prese dell'acciare, non so se c'erano 18 pollici, adesso non ti vorrei dire per fesserie nuove, però le avevo trovato un'occasione, questo le aveva acquistato uno, poi non so per quale motivo non è entrato in scatola e poi cercando in rete ne ho trovato un altro da un negozio e me ne hanno mandati nuovi. C'hanno 100 dB di sensibilità e funzionano una meraviglia, tengono 800 watt RMS. Dopo ti mando la fotografia di, io ho due Electro Voice, due singoli 18 Electro Voice, e li ho messo dei chiare assurdi, sono 2000 watt RMS, sospensione è pneumatica, hanno paura, hanno un SPL, sono trunconi che hanno, guarda, un'escursione mi sembra di 4-5 centimetri. Ma gli elettrovoli sono i Chavez, sta dicendo che tengono quella potenza? No, no, i box, diciamo, il box è dell'Electro Voice, però l'unico cono che si assomigliava specifico era quel Chavez, 450 euro lungo, tenessi buffer. Non lo so, ma la gente li critica molto, c'ha le roba economica, c'ha le fa bellissimi prodotti, veramente di grandissimo pregio. Quelli che ho io hanno una costruzione da paura, solo che noi siamo sempre fissati, siamo poco nazionalisti, dai. Ci avevamo dei prodotti eccellenti, anche il RCF ha fatto sempre dei bellissimi portapallanti e noi a chi si chiama nel RCF dobbiamo andare per fuori. Naturalmente c'è sempre di meglio, come tutte le cose, però magari andavi a comprare dei prodotti più scadenti solo perché erano costruiti negli Stati Uniti o costruiti in altre nazioni, perché la RCF ha fatto la storia dell'alta fedeltà dell'audio nel mondo, tutto il mondo hanno esportato, così l'acciare. Solo che la gente, a chi se vuoi si pone nel marchio di un altro marchio sopra stampato, se lo fanno costruire su specifiche dalla RCF.